Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Sono le 21 passate da 2 minuti di oggi, giovedì 3 ottobre 2013. Buonasera da Agostino Spolaore. Come di consueto c'è immancabilmente il 50% di questa trasmissione, cioè il mio fedele compagno ed è Maurizio Calzavara. Buonasera Agostino, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Ben ritrovato. Grazie Agostino. Ci abbiamo visto quando? Lunedì. Ma in trasmissione eravamo la settimana scorsa. Esattamente. Insieme. Allora, questa sera ennesimo live, ovviamente non poteva essere diversamente, in acustico. C'è una band friulana, ma ne parliamo tra qualche istante. Prima, come di consueto, i nostri dati immancabili, perché bisogna dirli. Giustamente, se qualcuno volesse, per esempio, chiamarci in studio, vi ricordo il nostro numero telefonico, che è lo 049 875 6423. Se invece volete mandare degli sms, che poi insomma magari io li leggerò e chiederò se avete qualche domanda da fare a questi Sunrise, vi ricordo il 346 23 20 033. Le nostre pagine su Facebook è semplicemente Blue Radio Veneto, una, e l'altra è Blue Radio Veneto Rock Wave, gestita da Alberto Prisco, che salutiamo caramente, che è anche il nostro direttore artistico. E poi ancora le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Questo è per quanto riguarda chi ci vuole ascoltare tramite la radio, magari in macchina, sta facendo un giretto, che ne so, nel Veneto, può ascoltarci tranquillamente in queste frequenze. Chi invece è a casa ed è in Brasile, per esempio, può ascoltarci tranquillamente in streaming. Basta semplicemente andare nel nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it, e lì c'è lo streaming, semplicemente cliccando dove c'è scritto ascolta la radio, siamo in diretta assolutamente 24 ore su 24, quindi avete la possibilità di ascoltarci quando, ogni volta che volete e lo desiderate fare, ovviamente. Credo di aver detto tutto e quindi adesso lascio la parola a Maurizio, che ovviamente lascio sempre a lui l'onore di presentare questa band. Io, prima che lui parli, posso solamente dire che sono molto, ma molto fiero ed onorato di averli qui, perché il disco, e lo dico pubblicamente, mi è piaciuto tantissimo. Sì, anche a me. Buonasera Sunrise, hai fatto buon viaggio da quel del Friuli? Sì, mi pare di sì, vero Nicole? Hai fatto un ottimo viaggio, no? Sì, sì, bellissimo. Hai fatto. Perché Nicole è l'unica ragazza del gruppo, con tutti i maschi. Così però è interessante. È difficile. È difficile però tenere a bada quattro personaggi. 3+1 facciamo, dai. Ok. Sunrise, 2009, l'idea tua e di Dario. Come è nata? Come si è sviluppata? Partita da Dario, in realtà. È partita da Dario. Sì, perché lui aveva delle musiche e mi ha chiamata, mi ha detto: vuoi scrivere qualcosa su queste musiche? Che tu già scrivevi per altre persone. Sì, sì. Per il maestro. Sì. e poi niente, abbiamo iniziato, ci siamo trovati, gli ho fatto sentire cosa avevo scritto, e le cose gli sono piaciute e abbiamo iniziato insieme a fare qualche concerto solo voce e chitarra. E poi ci siamo trovati bene, insomma, e siamo andati avanti. Abbiamo cercato altri musicisti. È arrivato Giacomo Iacuzzo con le percussioni. Sì. Poi è arrivato Leonardo. E ultimamente Daniele anche al basso. Perfetto. Esatto. Quindi poi avete fatto una cosa precedentemente di questo disco, che è il disco ufficiale vostro, il disco a lunga durata, si può dire così, disco sì. Vero proprio. Esatto. Questo parlare con la mia anima, Talking with my soul. Da dove proviene questa cosa, che è un progetto un po' particolare? Sì. Com'è Dario e Nicole? Ciao a tutti. Ciao Dario. Dario è il chitarrista, il principe della band. L'unico tra... È l'unico, sì. Talking with my soul. Perché ridi Agostino? Non ride. Talking with my soul era un progetto mio, era dove ho suonato interamente solo con la chitarra acustica e con la voce. Tra l'altro ci sono anche molti pezzi strumentali, solo acustici, e tre pezzi cantati da Nicole, e l'ho fatto perché volevo registrare i miei pezzi per poterli ascoltare, insomma. Non so, ma è vicino anche un progetto, però questo qua dà un progetto fotografico, una cosa di quel genere. Certo, i pezzi che abbiamo fatto su questo primo lo chiamo disco, però in realtà perché io ho cercato su internet, ma sì. È un disco o non è un disco? Qualcuno ha scritto che è un disco, qualcun altro ha detto che non è un disco, ma è non un disco, ci sono dei pezzi chiaramente, c'è... o no? Ce n'è è un disco ma non è ufficiale, è stato non è fatto ufficiale. Ma non è stato diffuso, okay. È una cosa per collezionisti, esatto, sì. Sì. Ma su internet ci sono alcuni sì, pezzi, alcuni c'è, pezzi c'è qualche pezzo su YouTube con delle fotografie. Abbiamo fatto con queste musiche un progetto insieme a un fotografo che ha voluto dare un significato con dei suoi scatti a queste canzoni, e le abbiamo suonate dal vivo con un mega schermo dietro, un proiettore. Bella cosa. Accompagnate da queste multivisioni con degli scatti interamente suoi. È stato un bel progetto, l'abbiamo fatto 3 volte. Però chissà se magari un giorno si potrebbe riprendere, richiede un certo tipo di lavoro. Quindi poi sono arrivati gli altri musicisti e il progetto, il disco vero ufficiale, già pulsava, si stava costruendo ed è arrivato. È stato difficile approntare una batteria, una tastiera, la voce di Nicole Dario e mettere tutti assieme le cose. Ma per quanto mi riguarda devo dire che siccome noi negli ultimi 2 anni abbiamo comunque fatto abbastanza, sì, non tantissimo, abbiamo fatto abbastanza concerti, quindi comunque abbiamo sempre fatto le prove, sì, quindi a livello di gruppo, insomma, musicalmente ci troviamo bene. Siamo abbastanza rodati. Beh, suonare quindi serve. Sì, alla fine ho detto, beh, dobbiamo registrarli questi pezzi. Perché, e siete arrivati alla convinzione che bisognava registrarli. Esatto. Qualcuno ha parlato di folk, qualcuno ha parlato di rock. Agostino, cosa possiamo parlare musicalmente? Anche di pop, chiaramente. Cosa dici? Sì, sono pienamente d'accordo con te, insomma. Questo disco magari in qualche momento c'è un po' di pop, almeno per quanto mi riguarda. E c'è la voce di Nicole che dà una certa colorazione ai pezzi. È fondamentale, è al centro della musica la voce di Nicole. Sempre al centro in ogni pezzo, secondo me. Io la vedo così, l'ho sentita così. Io vi porto già i saluti di Giulia Daici. Ciao Giulia. Ciao Giulia. E dice grazie. Un ciao a Nicole e a Dario e a tutta la loro band, insomma. Quindi ciao. Giulia è una fedelissima ascoltatrice, ma è anche una grandissima cantautrice, già passata qui da noi 2 volte. Aspetteremo per il terzo, quindi non c'è 2 senza 3. Giulia, quando suoi, sai che le porte sono aperte. Allora, io direi di rompere subito il ghiaccio, Maurizio, se tu sei d'accordo. Facciamo ascoltare già subito qualcosa di quello che è il mondo musicale dei Sunrise. Questo disco si chiama Out of Reality, è uscito in aprile di quest'anno, se non sbaglio. Sì, giusto. Quindi è giusto. Decisamente, no, sì. È abbastanza recente, c'è poco da fare. Sì, me l'ha fatto soffrire un po' Nicole. Ma insomma, comunque, attraverso la radio mi dicono che il volume è basso, l'ascolto l'alziamo un pochino, allora va bene. Dobbiamo sottolineare una cosa, Agostino, che stasera in Sunrise lo proporranno tutto live, escluso un pezzo. Quindi è una cosa abbastanza diversa dalle solite tematiche che noi approntiamo, però è una cosa positiva e anche coraggiosa, che fare tutto un live di un disco nuovo ci vuole coraggio, e apprezziamo il vostro coraggio, c'è poco da fare. Io prima di partire con la prossima canzone voglio svelare, posso, è un vostro segreto. È la prima volta che da quando sono in trasmissione in questo studio vedo fare un gesto scaramantico prima di partire con la trasmissione. È vero o no, Maurizio? È verissimo, è verissimo. Sportivo, scaramantico. No, ma in realtà sportivo. È un gesto che noi, siccome noi siamo anche amici fuori, insomma, e ogni volta prima del concerto facciamo questa cosa tutti insieme, vicini, con le mani che vanno in alto e per darci forza, insomma, per dire che siamo uniti. Batterista, dimmi batterista. Ma il gesto che avete visto voi non è quello che facciamo di solito. Davanti abbiamo, a tutti, abbiamo dovuto contenerci. Va bene. Dai, che facciamo ascoltare già la vostra prima canzone. Con cosa apriamo la serata? Con Sunsets on My Way, che è un pezzo, uno dei nostri primi pezzi con cui abbiamo iniziato a collaborare insieme. E questo, diciamo, purtroppo, devo dire, è un pezzo un po' triste, nonostante la melodia non sembri affermare questo, invece parte da una cosa autobiografica, un periodo della mia vita, e quindi vabbè, però poi finisce bene, insomma, ecco. Va benissimo. spent my time thinking of what is gone. Sitting on the edge of the world, I live this life on my own. Watching every sunset fall on my land, looking for someone who could release me. Oh, then you wanted to steal all my wandering wise, but there will come a time for me just to make up my mind. But for now I'll run away from those pleading thoughts. I won't lift you my hands, cause nothing's left for me. Alone, I feel my tears drop into my bones. Be in my home, I will see the sun. I walk my way, and I walk all alone. Once again, but all I saw was a lie. Telling myself keep holding on, but I'll never be the same. I'm so today I am reborn with music through my veins, and the very dream about alone. I feel my tears drop into my bones. Be in my home, I will see the sun. I walk my way, and I walk all alone. I walk my way, and I walk all alone. And I feel my tears that drop into my bones. But be in my home, I will see the sun. And siamo già partiti alla grande, vero Maurizio? Hai sentito che pezzo? Sì, è un pezzo bellissimo. Quando abbiamo sentito il disco, cara Nicola e cari gli altri, io, Agostino ed Alberto, mi ero fermato assolutamente su questo pezzo. L'avevo sentito un sacco di volte, perché la fusione tra il folk e il rock era perfetta. Qua stasera avete leggermente smussato il folk per dare l'aspetto rock del pezzo. E soprattutto la tastiera di Leonardo ha giocato con il bugo iniziale, ha fatto un effetto mug iniziale, a fare un intro, una colorazione. È diventato un pezzo rock e ci ha soddisfatto lo stesso, indubbiamente. È un grande pezzo, un grande trascinamento per la puntata di stasera. Io devo fare i complimenti anche per il testo, perché leggevo la traduzione in italiano, mi è più comoda che non tradurre. L'abbiamo messa apposta. E ci sono dei momenti veramente molto belli. Nicola, hai scritto tu questa canzone? Il testo sì. Sì, e sì. La musica invece? Dario. Sì. Questo è sempre di solito così, voi due? Sì. Sì. Sì, parte sempre tutto dalla musica e sopra la musica ci metto le parole. Sì. Per tutta la vita ho trascorso il mio tempo pensando a ciò che se n'era andato, seduta sui confini del mondo. Finora ho vissuto questa vita per conto mio, guardando i tramonti che cadevano sulla mia terra in cerca di qualcuno che potesse liberarmi. E poi tu, eccetera, eccetera, eccetera. Bellissimo, veramente un testo veramente molto molto bello, Nicole. Complimenti. Grazie. Così, sinceri. Nonostante non sia così allegro. Quanto ci avete messo poi alla fin fine? Vabbè, insomma, siete 4 anni che siete insieme, ma insomma, in termini di tempo per fare questo disco, quanto ci avete messo? Beh, abbiamo iniziato a gennaio con le registrazioni e il disco è finito, l'abbiamo finito ad aprile. È uscito, mi pare, se non ricordo male, il 10 aprile. 10 aprile, sì. Sì, sì, sì. Quindi diciamo 3 mesetti. Però le canzoni erano state fatte prima, insomma. Le canzoni erano state fatte prima, sì. Sì, quanto tempo prima? Allora, noi comunque alcune di queste canzoni le avevamo già iniziate a fare dal 2009, come ad esempio questa Sunset on My Way. Che poteva essere un benissimo singolo, non so se sia un singolo, questo poteva benissimo andare come singolo. Le avevamo registrate noi, questa insieme a, anche a Out of Reality, che è quella che dà il titolo poi al disco. Sì, il disco esattamente. Le avevamo registrate, ma chiaramente... È un'idea nostra, chiaramente poteva andare. Perché era un'idea perché era interessante. Se uno si ricordava i Blacksmore Night, in qualche momento ricordava in senso positivo questo duetto, questo folk che si immedesimava con il rock e la voce della bionda, che adesso non ricordo come si chiama. Però stasera abbiamo una bruna, una mora, chiaramente è la stessa cosa. Musicalmente, grazie, il pezzo era perfetto. Stasera, ripeto, avete cambiato, volutamente cambiato, c'è il basso di Daniele, giusto, che ha dato un impulso notevole, oltre alla batteria e gli strumenti, ma il basso è fondamentale in un gruppo, il rock, il basso dà il rock, dà la musicalità. E sto pezzo l'avete cambiato, ma ripeto, positivamente. Sì, beh, in realtà, comunque, tornando alla domanda di prima, abbiamo deciso di iniziare a registrare fine dicembre, primi di gennaio, sì. Però i pezzi sono da anni che ci lavoriamo sopra, sì. Fra prove, concerti e... Quindi l'avete fatto sentire un sacco di volte questo pezzo, sì, nei concerti, sì. Lo conoscevano i vostri estimatori. Sì, chi ci ha seguiti dal vivo, sì. È uno dei nostri pezzi di cavalli di battaglia. Ma riuscite a suonare tanto dal vivo voi, nelle vostre parti? Dipende dal momento, dal periodo, d'estate magari è più facile, d'inverno un po' meno, i locali più o meno sono quelli, però bisogna anche impegnarsi a trovarsi le date, ad arrangiarsi, quindi se ci si impegna sicuramente si suona, insomma, sì. Questa è una sviolinata perché se c'è qualche agenzia che fa booking, loro sono ben disponibili ad avere sotto le vostre ali. Allora, Out of Reality, questo disco, questo titolo perché? Questa canzone perché? Perché? Fuori dalla realtà. Esatto. Beh, il titolo era nato, se devo dire la verità, l'avevo scelto io quando avevo composto la musica, perché inizialmente era un pezzo che avevo suonato io in fingerstyle, solo per chitarra, e l'avevo chiamato così perché avevo questa voglia di evadere, di andare fuori dalla realtà. Spiega cos'è il fingerstyle. Noi lo sappiamo perché abbiamo un nostro caro amico qui di Padova che viene spesso a trovarci, ed è Luca Francioso, che lo pratica praticamente sempre. Però insomma, spiegalo tu. È una tecnica chitarristica. Puoi farlo sentire. Posso farlo sentire? Certo. Un pezzo. Vabbè, semplice. Era Tacoma Records, la famosa etichetta che faceva fingerstyle, ti ricordo. Sì, diciamo che questo era un esercizio dei primi. Ho fatto la prima cosa che mi è venuta in mente, ma arpeggiando si fa la linea melodica, il basso, la linea armonica, insomma, un po' tutto. E quindi era un pezzo strumentale, però insomma. Poteva avere anche un testo. Esatto. Ho detto, come tutti i miei pezzi, li ho dati a Nicola, ho detto scrivici sopra, poi li mettiamo a posto insieme. Ed è così nata questa canzone che ha avuto, non so, una sua storia. L'abbiamo fatta anche in friulano, nella nostra lingua locale. Bene. È stata anche riarrangiata da un bravo maestro. Sì, insomma, è una canzone che ha avuto un po' una sua vita, sì, diciamo. Sì, riarrangiata perché l'abbiamo presentata al Festival della Canzone Friulana nella nostra regione. E il maestro Walter Sivilotti con l'orchestra Mitteleuropa e la band Iscargo hanno riarrangiato ogni pezzo per orchestra, insomma, il nostro è arrivato a un finale col titolo Tal Ultim Sorelli, che non c'entra niente con Out of Reality. cosa vuol dire? Si può anche vedere su YouTube. Tal Ultim Sorelli è la traduzione letterale, è proprio nell'ultimo raggio di sole, non parla, il testo è completamente diverso dall'inglese, perché ovviamente non si può mai prendere una canzone e farla tradurla letteralmente sulla stessa musica, è impossibile poi tenere il senso, ma le parole non le puoi tradurre. No. Ascoltiamo un'altra canzone, Maurizio, cosa dici? Certo, live, sempre, sempre live. Sempre live. Questa sera facciamo una scorpacciata di live con il Sunrise. Adesso invece cosa ci fate sentire? Adesso vi facciamo ascoltare una ballata, sempre la musica scritta da Dario, che si intitola Roads to You. E questa, ah. E questa è una canzone d'amore, dolce. Ma dai. Sì, ecco. Che tra l'altro è anche quella che abbiamo scelto, sì, noi. Per la traccia numero 6, mi pare, vero? Sì, sì, sì, sì, è quella che mi è, sì, piaciuta subito. Ci vuoi dire qualcosina su questa canzone, Nicole? Allora, questa canzone, cioè, praticamente ho già detto che tutto, dicendo che è una canzone d'amore, è dolce, vabbè, romantica, ecco, una poesia. Io la vedo come una poesia da dedicare all'amato. Vabbè. Abbiamo capito. Ok. Sure. I was everywhere. Fino all'ultima goccia, come sempre, fino all'ultima nota. Questa è una canzone che mi ha colpito subito, Nicole, te l'ho detto, insomma, che mi è sempre piaciuta un sacco. Dolcissima, io amo le ballate, Maurizio lo sa, infatti lui me le fa sempre ascoltare, vero Maurizio? Mi fa sempre ascoltare le ballate. Certamente. Certamente. Cresce il naso. Sono d'accordo. Grazie per la solidarietà, Nicole. Bellissimo pezzo, Maurizio, le tue considerazioni. Sì, voglio solo dire una cosa, questo pezzo in questo momento l'avete fatto quasi identico, non avete cambiato poco, avete buttato pochissimo. A me piaceva il gioco di Jack, scusa, mi intrometto con Jack, che percuoteva i piatti con le mani, non con la bacchetta, con le mani. E poi hai usato uno strumento, Jack, me lo puoi dire che strumento è? E lo puoi fare anche sentire. Beh, è un comunissimo bastone della pioggia fatto bello, con un tubo di plastica e dei ferri dentro. Esattamente, e fa l'effetto della pioggia. Esattamente. Ecco, eccolo qua. Ecco, sta andando. E ci voleva, visto il pezzo romantico, è una ballata non malinconica, romantica possiamo dire, e ci stava anche la pioggia. La pioggia è sempre romantica in ogni caso. E infatti, sì, soprattutto sotto le coperte. E soprattutto sotto le coperte. E qua si può. No. Mi sono fregata da sola, ok. Rimangio quello che ho detto. Abbiamo capito. Cosa volevo chiedervi io? Sì, insomma, le vostre canzoni, le tue canzoni, meglio, Nicole, quindi abbiamo. Cioè, mi pare di aver capito, insomma, che nascono da tue esperienze personali o sono frutto anche della vostra, della tua fantasia, ma dal punto di vista testi? Sì, beh, dipende anche qua. Diciamo, alcune musiche nascono senza un particolare. Non voglio dire significato perché è scorrettissimo, una musica nasce sempre con un significato, però nasce senza una particolare intenzione, forse comunicare una cosa precisa. E invece altre volte Dario mi dice: ma questa canzone l'ho scritta pensando a, che ne so, a un momento della mia vita passato, e mi racconta, e allora magari in base a quello che lui mi ha raccontato ci scrivo il testo immedesimandomi negli altri. Sì. Quindi nasce prima la musica e poi il testo? Sì, sì. Sempre? Sì, finora sì. Quindi tu, Dario, c'hai questa melodia che ti viene in mente, la proponi e poi Nicole ci ricama sopra il testo, insomma. Sì, io mi vengono in mente queste cose, melodie, insomma, giro di accordi, tendenzialmente la melodia, sì. E dopo io, in base un po' alle emozioni con cui l'ho sentita, gliela faccio sentire e lascio fare. Ho provato ogni tanto a scrivere, ma quando c'è una Nicole nel gruppo meglio lasciar fare. Sì, no, e questa qua l'hai immaginata dal punto di vista melodico, musicale, così? O solo per, sì, chitarra? O l'hai anche questa, per chitarra, basta. Questa no, l'avevo pensata per farla con il gruppo, però l'avevo fatta con la chitarra, con una cordatura aperta in re. Sì, Nadgad, non so se sì. Chi suona la chitarra forse hai capito. E quindi facevo proprio, l'avevo fatta solo strumentale, però con l'intenzione di proporla al gruppo. Difatti ho trasformato completamente la mia parte anche per metterla al servizio degli altri, anche perché quando c'è la voce che canta, che fa la melodia, che difficoltà c'è quando si inserisce in un pezzo una struttura musicale già tu hai già costruito la struttura musicale, c'è. Inserisci la voce di Nicole, che difficoltà c'è ad inserirla materialmente, la voce? Ma spesso succede che magari io faccio la canzone magari con qualche accordatura aperta, qualche posizione particolare, poi dovendo cambiare magari la tonalità perché per Nicole, cercare quella che le calza più a pennello, devo stravolgere, allora devo passare, magari devo stravolgere completamente quello che ho fatto e quindi la rivediamo completamente, però manteniamo la melodia. Certo. Inizialmente forse un errore, non lo so, comunque che facevamo era che io continuavo a suonare i miei pezzi sempre col tuo style, e lei cantava sopra. Qualcuno mi ha detto: guarda, forse è meglio se l'accompagni con dei normali accordi. È vero, aveva ragione, quasi tutti i pezzi l'abbiamo fatto tranne quelli che abbiamo voluto noi. perché ci piaceva così, che la faremo dopo, non dico niente adesso. Ecco, quindi diciamo che difficoltà grosse non ce ne sono. Trovati subito, sappiamo cosa dobbiamo fare e cerchiamo di cercare la soluzione migliore. Ma questo tra te e lei e con il resto della band? Con il resto della band, cioè, invece, dal punto di vista musicale, voglio dire, i ritocchi, chi è che ci mette lo zampino? Leonardo, diciamo che noi musicisti che ci siamo giunti dopo abbiamo cercato di entrare un po' in punta di piedi, se si può dire, perché i pezzi comunque erano già completi e già belli per conto loro, quindi poi sono comunque diventati una cosa viva, diciamo, e questo è anche il bello di questi pezzi, che hanno molti anni ma negli anni comunque sono cambiati e hanno preso la forma del gruppo che li suonava alla fine. Quindi poi ciascuno ha cercato chiaramente di metterci del suo, sempre facendo le cose che ritenevamo, insomma, stessero meglio. Quindi il risultato comunque è qualcosa di nuovo, è qualcosa che appartiene un po' a tutti, anche se appunto si sviluppa sulle idee comunque di Dario e Nicole. Quindi poi voi ci mettete del vostro comunque, insomma. Beh, certamente. Qualche arrangiamento, qualcosa in più. Beh, certo, poi c'è tutta una dimensione che è il suonare i pezzi dal vivo, dove che è la parte che personalmente preferisco e penso anche gli altri, perché chiaramente è stato molto bello fare il disco, ma è una cosa un po' diversa. Suonare dal vivo penso che sia quello che ispira un po' tutti noi, chiaramente, e lì ognuno chiaramente mette del suo, da tutto quello che ha, insomma. Io comunque, se posso riprendere questo argomento, devo dire che quando faccio un pezzo lo mando a Leo, gli dico fai tu col piano, cerca tu, poi magari ci troviamo se c'è qualcosa che secondo lui può essere migliorato, perché comunque mi piace molto come suona e come soprattutto lui sa fare degli arrangiamenti, cosa che un po' meno, quindi lo dice solo perché siamo in radio, sì, poi dico quello che succede in sala, no, è anche una cosa simpatica da dire. Se quando andremo in TV voglio vedere cosa dirà. Una cosa simpatica da dire è che io e Leo spesso anche ci becchiamo, discutiamo, ma è una delle cose più divertenti. Beh, noi ci conosciamo da quando siamo nati praticamente, sì. Cioè da quando sono nato io, perché sono più giovane, quindi la fase creativa più discutiamo, più la cosa diventa creativa ed è divertente, sì, no? Ma tutti insieme anche discutiamo, sì. Ci azzuffiamo a prove. Ma è normale, insomma, all'interno di un gruppo ci deve essere, sì, la democrazia, sì. Questo prima di tutto, però insomma, sì, qualche scontro c'è, insomma, sì, ma non è, cioè, poi comunque ci vogliamo bene, certo, come prima, non è che poi non ci guardiamo più in faccia, insomma, è normale parlare, anche se qualche volta evitare di guardarci in faccia. Il problema è quando si arrabbia Jack. No, sto scherzando. Sì, Jack quando si arrabbia è irremovibile. Ma Daniele è sempre così silenzioso anche quando siete in prova? No, Daniele, sì. Assolutamente sì. Ma i bassisti sono tutti così, Parla poco lui. I bassisti parlano sempre molto poco e agiscono. Però suonano, infatti. Agiscono. I bassisti sono, almeno io che ricordo di aver conosciuto parecchia gente che viene a suonare da noi, e i bassisti hanno sempre questa caratteristica, parlano poco, ma quando danno la nota tutti quanti devono stare sull'attenti. E quello è l'importanza di avere un basso in una formazione, secondo me. Bene, con McCarthy in docet. Ecco. Guai a non averlo. Sì, e adesso cosa ci fate sentire? Adesso vi presentiamo Kamala, che è praticamente questa canzone dedicata proprio al personaggio del libro Siddhartha di Hermann Hesse. E questo personaggio era Kamala, una donna, possiamo dirlo, una prostituta, che si era innamorata di Siddhartha perdutamente, lui altrettanto, però poi lui se n'è andato, però è rimasta sempre nel suo cuore. Ecco, questa è Kamala. Came to me, came and whispered your name. In my ear, music play, a slippery farewell song. River flows, and I know. Course. stands down, frightened. Nothing is what it seems. What do my feelings mean? And I know you're the one who knows me by heart, the only one who can play the key to my life. How I wish I will swallow those days when you wake, finding out you're in love with everything. I'm here waiting for you. Someday we'll meet again. Una brezza dolce veniva da me sussurrando il tuo nome, la musica suonava una sfuggente canzone d'addio nella mia testa. Il fiume scorre e ora so che posso imparare dal suo corso, scorre pure e semplice. La distanza non lo spaventa, ma se niente è come sembra, che significato ha ciò che sento? Io continuo a ribadire le stesse parole, mi ripeterò, ma insomma, Nicole, c'hai dei testi che sono veramente splendidi. Cioè, non, mi viene facile, come dicevo prima, leggere la traduzione in italiano piuttosto che leggere in inglese, ma insomma, Veramente sono delle poesie le tue canzoni, insomma. Wow, grazie. Per me questa è la più bella cosa che uno mi può dire, è questa. Beh, insomma, se questo è l'inizio, penso che sia un inizio che avrà un seguito. Grazie, speriamo, dai. Lo speriamo anche noi, che poi magari se avete voglia di tornare a trovarci. Noi sicuramente. Sai che ti vogliamo bene, quindi ti apriamo le porte, insomma. Grazie, sì. Questo è un pezzo molto piacevole, una vera e proprio pezzo pop. Cari ascoltatori, vi dico una cosa. Io ho tentato per 5 minuti, circa tra i 3 e i 5 minuti che è durato il pezzo, di accapparare la fotografia del colpo che dava Jack sul piatto con la mano. Non sono riuscito a... È troppo veloce. E quello dà la colorazione del pezzo, dà anche questo gioco dei piatti, è molto divertente e molto accattivante. Dobbiamo sottolineare che il pezzo, l'inizio, è stato trascinato dal basso, il basso che trascina il pezzo iniziale, poi lo sviluppo è totale, però il basso stavolta è perno, e quello è da proprio in là tutto quanto, a mio parere. Dario, sì, sono pienamente d'accordo, anche perché in questo caso avevo il volume della chitarra a zero. No, sto scherzando, è vero, però c'è sì questo. E beh, vedi, lui è eccolo qua. È perfetto, si sente, sì. Benissimo. Com'è che faceva? Fai un'altra volta, dai. Vabbè. Puoi ripeterlo, se vuoi fare 30 secondi. Fai un giro. Ah, il giro, ok. Sì. Ancora? L'ho sentito molto americano questo pezzo, non so se siete d'accordo. A me ricordava, non so, Agostino, pensaci anche a te, ricordava qualcosina di certe cose che faceva Eddie Brickell, quei singoli di Eddie Brickell ancora qualche tempo fa. E questo folk che si mischiava al rock, un rock alla Easy Listening, alla Fleetwood Mac in alcuni momenti, ecco, qualcosina sì. Magari Task, oppure Rumors, ma oppure Rumors più altro Task. Questo gioco, quei colori molto piacevoli, molto inglesi ma americani, visto che Fleetwood Mac ormai vivevano in America da sempre, danno questa sensazione di un'America gentile, accattivante, questo gioco acustico, questo gioco pop, secondo me. E i piatti di Jack favorivano questo, secondo me. Fortuna che solo un piatto, se avessi due, ragazzi. con batteria usi nei live? Cioè. No, uso una batteria un po' particolare. Uso un set formato dal Kaon, che è quello che sono stasera, sì. E un rullante piccolissimo, un po' stoppato, per avere un suono particolare, e il Charleston e il Ride, una batteria non praticamente... Con la mano sinistra faccio la cassa, la batteria, e con la destra cerco di fare il resto, tipo rullante e Charleston. Bene, interessante, molto interessante. Volete riposarvi un po'? Facciamo ascoltare qualcosa dal disco adesso? Sì, va bene. Cosa ne dite? Vabbè. Sì. Avete scelto, meglio dire, Ride on a Day. Sì. Perché? Perché diciamo... Quasi tutte le nostre canzoni hanno i cori nel disco, questa oltre ai cori ha la chitarra elettrica, ha un arrangiamento particolare, insomma completo, che ci piaceva far ascoltare, insomma, nel suo complesso. E questa invece che canzone è, Nicole? Questa è una canzone... Questa l'hai scritta totalmente te? Sì, la melodia e... E la musica. La melodia e il testo, sì. Ma questa canzone è nata in un modo banalissimo, nella mia testa andando in bicicletta, per quello si intitola Ride on a Day, ed era una giornata di primavera, più o meno, quasi primavera, insomma, quelle giornate quando ci sono quei bei tramonti, con quell'aria un po' ancora fresca, però già che si sentono i profumi, no? E così in bicicletta mi guardavo le cose attorno a me, mi ero sorpresa di quanta vita ci fosse, così proprio che noi nelle nostre cose siamo presi ogni giorno e non ce ne accorgiamo, no? E quindi è nata così, ecco. Vi porto i complimenti da Lisa, dice: molto bravi, bella voce lei, molto sicura quando canta. Grazie, Lisa. Ciao Lisa, ciao, un bacione. Lisa. Abbiamo Francesca qui, ce la lasci qua un pochino, vero, questa sera? È una vostra fan, tra l'altro, anche, va bene? Grazie. Va bene, allora ci ascoltiamo questa canzone, che è l'unica canzone che ascolteremo dal disco questa sera, se non sbaglio. Esatto. Che meraviglia. Around, flowing everywhere, the end of the day. SMS 346 23 20 033. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Eccoci qua, 21:53, sempre in diretta qui a Blue Radio Veneto con la voce di Agostino e di Maurizio, ma soprattutto con Nicole Lizzi al vocalist, Dario Di Lorenzo alla chitarra, Giacomo Jack Iacuzzo alla batteria, Leonardo D'Agostini alla tastiera e Daniele Giganti al basso, ovvero il Sunrise, disco come torno a ripetere, bellissimo, si chiama Out of Reality, fuori dalla realtà, noi ci siamo realmente qui in studio con loro e loro ci stanno facendo ascoltare proprio la loro musica. C'è qualche gruppo, qualche artista che vi ispira un po', insomma, in quello che fate? Tantissimi. Ce n'è qualcuno in particolare? Beh, io per quanto mi riguarda tre gruppi. Gli facciamo la domanda, facciamo la domanda. Tre gruppi. Adesso Agostino vi fa la domanda di programmatica. Vabbè, insomma, dai, tre canzoni, tre dischi, meglio dire, che vi piacciono, che vi portereste con te in una fantomatica isola deserta. Ah, i tre dischi. Mm. Ok, beh, The Dark Side of the Moon. Ti pareva? Quello non si può, no? Sì, sì, no, è uno dei più gettonati. Sì, vediamo se arriva anche l'altro. No, io ho un disco che si chiama The House of Atreus ed è dei Virgin Steel, che è un gruppo power metal, quindi forse... Un po' difficile. Un po' difficile. Che sia gettonato così. È un rock metal, diciamo. E allora resta qui dopo di noi che c'è Renato Ferro con la sua musica hard rock e heavy metal. Ecco, perfetto. Okay. Poi mi piace molto Ben Harper. Ah, benissimo. Senza distinzione dei dischi, mi piace tutto quello grande, che fa e lo ascolto molto, soprattutto anche per il suo modo di suonare e di cantare. Giacomo, a te, lascio per l'ultima Nicole così si prepara bene. Quando avevi chiesto i tre album da portare via in un'isola deserta, ci siamo visti io e Daniele e abbiamo detto 3000 album, perché è impossibile. Sì. Lo so. Comunque, uno sicuramente... Talk a Book di Stevie Wonder. Ah, quindi fai felice Agostino. Grazie. Grandissimo. ma si vedeva che andavamo d'accordo. Perché non sono The Cave Life? Perché più che altro mi piace. Sono nato musicalmente, adesso una parolona grande, certo. Con Superstition. E allora. Scusa, sai. Dopo un altro è un live dei Deep Purple, Made in Japan. Quello è un altro classico. Sì, lì mi sono innamorato proprio della batteria. La batteria, Ian Pace. E dopo non saprei, perché ci sono talmente tanti che portarne via solo uno, io potrei buttarla là. The Sound Remains the Same, grandissimo questa... Non la canto, che è meglio però, sì. Nicole, la conosci? Certo. Vuoi cantarla? No. Quindi hai citato i Led Zeppelin alla fine, insomma. Ok. Certo. Leonardo, tocca a te. Beh, avrei detto anch'io Made in Japan. No, te l'ha rubato. Non si può. Ecco perché tengo per ultima Nicole, perché lei si prepara bene, capisci? Poi aggiungerei Areazione degli Area. Come mai Area? Ti piace molto Demetrio? Perché Made in Japan è un altro disco dove emerge proprio la potenza, diciamo, della musica dal vivo. Mm-hmm. È una creazione quasi sul momento. Sì, esattamente. Anche se improvvisata per modo, diciamo, di dire, chiaramente. Dove la comunicazione sul palco è, diciamo, l'elemento principale. Beh, Demetrio era Demetrio. Esatto, a parte chiaramente tutti i musicisti di grande valore. Certo. Però quella è un po' l'essenza della musica. E ci metterei anche The Cold Concert di Keith Jarrett. Ah, bravo! Che è da pianista, chiaramente, è uno dei dischi di riferimento. Il famoso disco da più di 1 milione di copie. È stato uno dei pochissimi che ha citato Keith Jarrett, musicista jazz, però che qui fa musicista rock o pop, tra virgolette. Un disco da 1 milione di copie. Era mai capitato all'epoca che un disco di jazz vendesse così quindi tanto. Non sono stato molto originale. Colin Cons, famoso album bianco. Tocca a te, Daniele. Sono tre, dicevo. Come purtroppo sono solo tre. Avvicinati al microfono, Daniele, per cortesia. Allora, Curtis Mayfield, There's No Place Like America Today. Benissimo. Donny Hathaway Live. Mm-hmm. E I Speaking di Albert Collins. E quindi hai citato una cosa un po' particolare, decisamente, non dico di nicchia, ma abbastanza particolare. Chi tocca? Tocca la nostra vocalist. Sì, una domanda difficilissima però, perché io ne porterei 3000 anch'io, come Jack. Ma io direi che porto Tang dei Pearl Jam. Ci fermiamo un secondo, il disco di Pearl Jam esce fra 5 giorni. Sì, lo so. Lo sai benissimo, sì. Lo sai benissimo. Tang è stato considerato e verrà sempre considerato il disco più importante perché ha dato una svolta. Esatto. Sei d'accordo? Sì, d'accordissimo. Ok, vabbè. Puoi cantarla se vuoi. No. Quindi Tang dei Pearl Jam, disco sì. Meraviglioso. Questa è Last Kiss. Esatto. Brava. brava, complimenti. Poi mi piacerebbe portare Little Earthquakes di Tori Amos. Ecco, brava, interessante. Ecco un altro riferimento che può starsi alla tua voce è Tori Amos, in qualche momento. Quelli pezzi più pop, tra virgolette. Beh, sì, io lei l'adoro. Non suona il piano, ma suona il piano? No. No, non suona il piano, però va bene lo stesso. E poi porterei The Boot di Björk. Ecco, un altro disco particolare, veramente particolare quello là. Sì, Björk è una voce, non si sa, la sua discografia è piena di tante cose meravigliose, di tante cose molto difficili, sì, molto complesse. Sì, ma lei mescola tutto, sì, mescola. Con il pop, con il rock. Mescola, hai detto una cosa, mescola, sì, alla grande. E infatti mi piace questa cosa. Da quando è partita con i Sugar Cubes, un po' di tempo fa, la sua band, lei di islandese chiaramente, e poi eccola qua. Eccola qua. Bene Agostino, abbiamo finito il giro. Ok. Vedo che le sai tutte. Beh, se ama Björk le conosce, esatto, le conosce a memoria. Va bene, allora adesso invece noi amiamo i Sunrise, quindi che non conosciamo a memoria il disco quasi. E cosa ci fate ascoltare adesso? Abbiamo gli ultimi 30 minuti in vostra compagnia, quindi abbiamo ancora insomma un bel po' di canzoni da far sentire. Allora, noi adesso vi facciamo ascoltare I Don't Care, che è un pezzo contro la violenza, che ho scritto in un momento in cui in televisione c'erano queste notizie di guerra ovunque, e quindi ho scritto questo pezzo ed è nato I Don't Care. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. I don't care if the world of today is to hate. I just need to be forgiven. Wounded eyes is all I see. Everywhere I feel I need to forgive. Well, I just need to forgive. And when the blood is shed around, you cannot see there's another human being who's passing through your wall of steel. To look right at your eyes and strike down your mind. Another human being. I don't care about your dropping down and bodies flow into rivers of rage. I know I'm not the only one. I don't care about your mouth throwing, and I don't care what you want to show the way. Raise your hands and take a breath. Cause you can't forget. Cause what I really do care is all about the world. But the day is coming on when the light is breaking the walls, and from the ruins of our shame we'll walk to the same destiny. cause we're same destiny. I don't care about your metrowing, and I don't care what you want to show the way. Raise your arms and take a breath, cause you can't forget. Cause what I really do care is all about the world. Noi della redazione abbiamo scritto una cosa di questo pezzo che secondo me è molto difficile da eseguire dal vivo, perché ha un sacco di fermate e ripartenze, molto contrastato, è una fusione tra rock e il pop. È così Dario, Nicole, Leonardo, Jack e Daniele? Una domanda per tutti. Ma... sì. Vai Leo, vai. Leonardo vai. Ha risposto. Sì, vai tu Leo. Leo, dimmi qualcosa, dai. Secondo le mie impressioni, io sì, l'ho pensata me così. È abbastanza complicato rispetto agli altri pezzi. È complicato perché ci sono tante fermate e ripartenze, ci sono tanti cambi di tonalità. È quello che dà la complicazione, nel senso positivo. Una band dal vivo si vede anche in questo. Sì, penso anche dal punto di vista ritmico ci siano più cambiamenti, sia un po' più vario degli altri pezzi. Comunque è uno dei miei preferiti. Bene. L'idea come l'hai scritta? Cioè, musicalmente, il testo l'ha scritto Nicole, ma musicalmente come avevi già l'idea di queste fermate e ripartenze oppure no? Jacket ti ha dato la forza? No, non me lo ricordo. Non lo ricordo. No, devo dire che era nato comunque da un sentimento di... Lei parlava della guerra, quindi sì, doveva essere... è già nato, già proprio col titolo, I don't care, nel senso che ci sono tante ingiustizie, tanta violenza, e non è... I don't care, che vuol dire un po' non mi... Come si può tradurre? I don't care. Non mi interessa, ma nel senso... Ma non nel senso che non mi interessa che ci sono queste cose, mi interessa se ci sono, bisogna... opporsi. No, diciamo che è una cosa che io sto parlando a chi decide queste cose e gli dico non mi interessa i tuoi progetti, non mi interessa che tu vuoi fare queste cose, insomma quello che mi interessa è il mondo. Quindi che è un pezzo che esprime un po' questa rabbia verso queste cose ed è nato proprio con mosso da questa forte energia. Secondo me è un pezzo che comunque bisogna farlo, come si dice, bisogna farlo rendere, sì, certo. Richiede molta energia dal vivo, infatti alla fine quando finisce sai esattamente, c'è la liberazione, è come andare a fare una corsetta. E poi ho notato in questo qua dentro, in questo momento, che c'era un momento di pausa in cui Leonardo giganteggiava con la scala del piano. Me la rifai la scala del piano che hai fatto? È molto bella, eccola qua. Aveva un po' di prog, leggermente ondulato così. Richiama un po' comunque sì la linea della voce. Sì, di Nicole. Vedi, noi qua le scalette non sono mai effettive, le cambiamo sempre totalmente, perché è la bellezza della nostra trasmissione, è questa, cambiare lavorando in progressione, adesso dal vivo 22.06. Beh, è il bello della diretta, appunto per quello. Allora, io sono sempre curioso, lo dico sempre, continuerò a insistere su questa mia forma. Marzulliano? No, quasi Marzulliano. No, lasciamo stare. lasciamo stare Gigi. Allora, la curiosità mia sta in questo, cioè il nome da dove deriva, perché avete scelto questo nome, insomma. Allora, il nome è stato la cosa più complicata di tutto, come è stato sempre, trovare come un sempre. Nome. E adesso iniziamo ad essere convinti, perché fino a poco fa non eravamo nemmeno tanto convinti di questo nome, no? Però abbiamo pensato alla musica che facciamo, abbiamo pensato a tutti i colori che si mescolano in questa musica, no? Questi generi che si mescolano, queste atmosfere, e abbiamo pensato ai colori che all'alba, no? E, E quindi mi dice, ah, l'alba, ok. Però comunque noi anche veniamo dalla parte dell'Italia dell'Est, che è la parte dove sorge il sole. Cioè proprio buttata lì, però è uno tipo arrampicarsi sui vetri, no? E quindi abbiamo deciso di chiamarci Sunrise per questo. Che era un famoso, dare anche un'interpretazione mia. Dimmi Leonardo. Rispecchia anche un po' il contenuto dei testi di Nicole, perché diciamo che tendenzialmente c'è questa malinconia che sta un po' alla base, però c'è sempre di fondo una speranza. Comunque sono tutti pezzi che poi alla fine hanno, diciamo, un esito positivo verso il futuro, e quindi Alba anche in questo senso secondo me è un nome che rispecchia molto questa linea. Wow. Ed era anche, mi pare, se non mi sbaglio, un disco abbastanza importante dei Jefferson Airplane, Sunrise. C'erano Jorma Kaukonen, Grace Slick, musicisti di un certo livello. Avevano Sunrise come titolo di un loro album, di un loro percorso più che un album, perché loro si sono distinti in tante diverse colorazioni. Era un disco molto importante, 1971-72. Anche Norah Jones, Sunrise. Anche Norah Jones, vero, esattamente. Sì. Anche qui. Sì, sì. Un po' gli anni dopo quella là, però, leggermente dopo. Sì. Va bene. E cosa dite? Quante canzoni ci volete far sentire ancora? Abbiamo ancora circa mezz'oretta, scarsa. No, giusto per regolarmi con le chiacchiere. Ancora tre, se per voi... Ci siamo. Allora facciamo una subito, via. Va bene. E allora vi presentiamo Behind My Eyes. Ah, quella è la mia preferita. Esatto, assolutamente la mia preferita. Sì. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Nothing I want to say. All I want is to get away. With no time and living here, I see things as big as my fears. Confusing life with pain, and those teardrops with the rain, just closing my tired eyes to feel me on the other side. Don't try to know about me, don't speak to me what it seems to be. What I live is here behind my eyes, comes out of these and of me. Within a silence, I'm gonna rise and feel in my soul to get. What I live is here behind. Per quello mi era piaciuto molto questo pezzo, l'ho sentito un sacco di volte. Ho tentato di proporlo ad Agostino, a lui piaceva il numero 6, ci siamo messi d'accordo, abbiamo fatto sentire il pezzo numero 6. Io posso chiedere una cosa? È difficile scegliere un disco bello, scegliere una canzone. E questo è un pezzo molto bello, molto significativo, molto di trasporto. E visto che sono egocentrico, adesso mi fate l'intro, il ritornello nuovamente. Paganini non ripete, ma stasera ripetiamo. Grazie. 21, 22 e 15. L'intro e il ritornello? Sì. Allora, l'intro, questo? Okay. Ecco, sì. Tu la fai in mi. Pensavo forse salissero. C'è stata un'esperienza politonale nel mezzo, ma avanguardia. Non avevo capito che io su. Io pensavo salissero. Il bello della diretta. Sì. Sai perché? Il discorso è questo: che nel disco, nel pezzo, l'intro con alla John Mellencamp lo fai molto più veloce. Stasera l'hai fatto molto più lento. E quello è il motivo. L'hai cambiato, l'avete rallentato questo pezzo. Mentre nel disco è molto più complesso, è molto più ritmico, molto più veloce. Anche se sono le fasi acustiche di cambiamento, di interruzione che fa Leonardo, ma è molto più complesso, cioè molto più di presa. Stasera invece, giustamente, in emissione acustica l'avete rallentato e avete un po' disorientato Nicole in questo momento. No? Scusate, chiedo scusa a tutti. Ok. Che poi mi le sento anche. Ma è tutto, è bello questo, perché è tutto dal vivo e non c'è niente di. Cari ascoltatori, non c'è niente di costruito. Nessuno poteva sapere che io assurdamente facevo ripetere un pezzo alla band. Assolutamente. Dobbiamo fare l'intro e un ritornello, solo che i ritornelli hanno due tonalità, e quindi c'è chi l'ha fatta in una, chi l'ha fatta nell'altra. Potrebbe essere un nuovo modo di fare musica. Sentite uno spiffero, ce l'ho fatta. Avete già, state lavorando per il prossimo disco? Avete già qualcosa sotto che bolle? Io sto scrivendo qualcosa. Mm-hmm. Poi vorrei parlare poi con loro. Puoi anche iniziare già adesso. No, no. No, ok. E credo anche Dario. Credo. Non so. Fai bene a crederlo. Sì. No, io sì, ho delle idee, devo sistemarle. Mm. Ho tante idee, devo dare un po' di senso. Perché... Però comunque, insomma, il proseguo sarà su questa linea, insomma, comunque. Sì. Su linea musicale, intendo. Chi lo sa? Non si può mai sapere. Diciamo magari che... come Björk facciamo. Ecco. Sì. Diciamo che la nostra... Diciamo che col disco adesso stiamo cercando di prendere un po' questa identità sonora anche con questi strumenti, poi certo. Vediamo se riusciamo un po' a evolverci a crescere, ecco. Crescere, sì. Certo. Abbiamo 10 minuti, ci sono ancora due canzoni, giusto? Sì. Ci stiamo. Facciamo la canzone e poi torniamo in studio e diciamo il sito dove si può acquistare il disco e insomma queste cose qua. Adesso cosa ci fate ascoltare? Adesso vi facciamo ascoltare Jump in the Sky. Una canzone che parla di sogni, di buttarsi, di non aver paura a credere nei sogni, ecco. Di non pensarci troppo. E non ci pensiamo. Lo ascoltiamo. Thank you. different way to stay. Walk on again and again, holding my hand in your hand, eternally floating into wind, to get a piece of possiamo dire, cari ascoltatori, no, voi non l'avete visto, come incitava Nicole la band, la incitava alla grande, soprattutto Jack, dai Jack, diceva. La incitava, bello questo, grande grinta questo pezzo Nicole, grande trasporto, grande grinta. È arrivato Renato, quindi abbiamo pochissimo tempo da stare ancora in compagnia, purtroppo il tempo vola quando si sta bene insieme, avete visto, è passato già un'ora e mezza in vostra compagnia con la vostra musica, avete suonato tantissimo, questo ci fa veramente molto piacere. Prima di salutarci però, i vostri contatti, se qualcuno volesse, che ne so, richiedere il disco, dove si può trovare il disco, il vostro sito, i vostri prossimi concerti, insomma tutto quello che è inerente al mondo Sunrise. Sì, allora, il nostro sito è su Facebook, la nostra pagina Facebook è www.facebook.com/sunrisemusica con la K, e poi abbiamo una mail che è sunrisemusica, sempre con la K, @gmail.com, E poi se volete il nostro CD è anche in vendita online su iTunes, Amazon, Virgin MP3, eccetera eccetera. Ci trovate, insomma. Se qualcuno vi contatta potete anche spedirglielo a casa. Certamente, ne abbiamo tantissimi, quindi ben vengano. Prossimi concerti, Nicole? Ma adesso in realtà concerti veri e propri non ne abbiamo in programma, perché siamo impegnati a preparare la seconda fase del Tour Music Fest che avremo a Milano il 20 ottobre. Uh-huh. E quindi ci stiamo concentrando lì per fare al meglio. Abbiamo una possibilità, un pezzo solo, per cui dobbiamo prepararci bene. È una specie di concorso? Sì, è un concorso molto grande, internazionale, dedicato alla musica emergente. E il presidente di giuria in finale sarà Mogol. Uh-huh. E quindi adesso ci prepariamo per questo, perché è una cosa seria, insomma. Ecco. Certo. Una curiosità, Nicole, proprio sì, a te. Sì. Quanto cuore ci hai lasciato in Africa? Non mi rispondere, non abbiamo capito. Tantissimo, però ne ho riportato anche altrettanto a casa con me. Immagino. Dal punto di vista musicale, invece, i suoni africani come li hai trovati, come li hai sentiti? Ah, bellissimi. Loro hanno tantissimi suoni, soprattutto le percussioni. Ma hanno anche molti strumenti, in realtà. Hanno strumenti strani, io non so i nomi, ma comunque suonano. La musica accompagna le loro giornate, sempre e dovunque. Sì, questo te lo confermo. Sai che abbiamo avuto una band dal Senegal, aveva la cora. Ah, ok. Sì, anche là ce l'hanno, sì. È bellissimo lo strumento, che sembra un'arpa, ma è infatti bellissimo. Quando ero là mi veniva sempre in mente la canzone di Battisti, Anima Latina. Uh-huh. Dove musica e miseria diventano cosa sola, infatti è uguale proprio. Bene, una bella esperienza. Sì. Benissimo, allora noi mi dispiace sinceramente, perché io volevo fare ancora altre 3-4 ore con voi, ma insomma purtroppo il tempo è tiranno e ci restano pochissimi istanti da stare ancora insieme. Prima però già vi dico che ci saluteranno con un'ultima canzone, che è Out of Reality. È proprio quella che dà il titolo all'album. Esatto, sì. Benissimo. Allora, prima di tutto, Maurizio, noi dobbiamo ringraziarli. Certamente, abbiamo fatto uno spettacolo di un'ora e mezza intera, come si dice negli annali, cioè praticamente tutta musica dal vivo. È una cosa molto positiva, come giustamente tu hai detto, perché l'essenza di questo programma, l'idea di questo programma nata da me, da Alberto, da Agostino e da Flavio, è fare musica live al 100%. È più bello di così. Ieri sera gli America hanno fatto 1:10, mi hanno detto, quindi purtroppo. Solamente. E gli America hanno una certa età, però hanno tanti dischi, però anche era una battuta la mia. Sì, era una battuta. Allora, prima di salutare e ringraziare ancora Nicole Lizzi alla vocalist, la voce, insomma, Dario Di Lorenzo chitarra, Giacomo Jack Iacuzzo la batteria, Leonardo D'Agostini alla tastiera e Daniele Gigante al basso, ovvero il Sunrise, anzi li facciamo salutare da loro, quindi cominciamo dalla donna. Ciao Nicole. Ciao a tutti, anche io volevo ringraziarvi personalmente, Maurizio e Agostino, per averci invitato, insomma, per essere stati così gentili con noi, e ovviamente salutare tutti gli ascoltatori, chi ci ha ascoltato, e ringraziarli. Ricordiamo che tra qualche giorno ci sarà anche il podcast, quindi potete riascoltare questa trasmissione interamente, gratuitamente, ogni qualvolta che lo volete, basta collegarsi nel nostro sito, comunque anche nella pagina di Nicole su Facebook, metterò il link. Grazie. E poi ancora di Dario. Allora, grazie a voi per il calore e l'affetto con cui ci avete accolti e per il bel clima che si respira qua dentro. È stata veramente un'esperienza nuova per noi e molto positiva. Guarda che è la prima di una lunga serie, eh. Ma molto volentieri. non credi di scappare, se ti fa piacere, ovviamente. Grazie. Jack! Beh, Dario e Nicola hanno già detto tutto, quindi io continuo a ringraziarvi, a salutarvi caldamente e ci vediamo alla prossima. Allora. Ci vediamo. La prendo come promessa, eh. Ecco, va bene. Leonardo? Ciao a tutti, arrivederci e grazie mille. E infine Daniele, quello che parla sempre. Sì, infatti, un grazie a tutti quanti e arrivederci alla prossima. Allora. Alla prossima. Quindi alla ci prossima. Sarà anche Daniele. Sto che può dirlo. Va bene, allora prima di salutare e sentire l'ultima canzone, io vi do l'appuntamento a lunedì con una cantante che ci raggiunge dall'Australia, è in tournée in Italia, ci fa questo enorme regalo, è appena uscito il suo disco nuovo e lo vuole presentare qui da noi. torna dopo un anno, visto che è già stato l'anno scorso, insomma, ritorna Lori Greco con il suo disco nuovissimo che è appena uscito. Questo, come ripeto, ci fa molto ma molto onore. E poi l'appuntamento con giovedì prossimo con il musical sarà la volta di Accademia, che ci presenteranno la loro opera, insomma, Night Lives. Quindi l'appuntamento è sempre qui su Blu Radio Veneto con Agostino, con Maurizio e soprattutto con la buona musica. Ciao Sunrise e grazie ciao, ancora. Grazie ciao, a voi, grazie. Ciao, grazie. Ciao. In their minds, snow was falling down, fighting against my spirit, I get lost. Oh, oh, oh, oh. But at the end of the road, was all that I saw, but the light didn't into your eyes, and the words came out easily, bring me out of reality, bring me out, cause I want to be, and take more. my fears, throw them all.